Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Megafono della galassia animalista, antispecista e vegan. E il notiziario di attualità altra animalista. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnini. Credete alla reincarnazione? Nel caso in cui questa teoria per voi avesse un fondamento, auguratevi di non rinascere come membri della famiglia avicola. Le condizioni di vita di polli e galline, infatti, nel mondo zootecnico sono le peggiori immaginabili, sia per la breve durata dell'esistenza di questi animali, sia per le privazioni alle quali sono sottoposti. Basta pensare che quando mangiate un pollo state mangiando un cucciolo di pochi mesi che fa ancora pio pio e non ha ancora raggiunto la maturità sessuale. Nel mondo vengono divorate ogni anno 106 milioni di tonnellate di carne di pollo, risultato della macellazione di 58 miliardi di polli, circa 8 per ogni essere umano esistente sulla Terra. Sono numeri che fanno girare la testa e questo riguarda solo il cosiddetto mercato della carne. Poi c'è il cosiddetto mercato delle uova. Si parla di un consumo di 179 uova a persona ogni anno. Moltiplicate il tutto per 7 miliardi e 400 milioni di umani presenti sul pianeta, è un conto che con una normale calcolatrice non si riesce a fare. Jeffrey Moussaieff Masson, nel libro Il maiale che cantava alla luna, ci spiega che in natura sia la gallina che il gallo ingannano i nemici, stringono forti legami di amicizia, proteggono la prole e salutano l'alba con un'esplosione canora. Ed è così che dovrebbero vivere i galli e le galline, e noi dovremmo proteggere questa loro vita, gioire nel conoscerla, perché una gallina o un gallo possono essere nostri amici e misteriosamente permetterci di vivere accanto a loro per il breve periodo in cui ci troviamo entrambi su questo pianeta. Dobbiamo ai polli, scrive Masson, le nostre più profonde scuse. Silvia Amodio, giornalista, fotografa, professionista che da molti anni si occupa di animali, ha interpretato questo spirito decidendo di vivere accanto a Nina. Da anni Silvia cerca di attirare l'attenzione attraverso un approccio estetico nei confronti di categorie di cui nessuno si occupa o vuole sentir parlare, siano essi umani o non umani. Perché ciascun vivente, dice Silvia, ha il diritto di essere rispettato, di avere una vita dignitosa. Si è occupata di malnutrizione in Burkina Faso, di bambini lavoratori in Perù, di malattie genetiche rare come l'albinismo e di pedofilia clericale. Nina è una gallina sottratta al mercato dello sfruttamento e in quanto salvata ha un compito solenne: diventare ambasciatrice del mondo crudele che vogliamo superare, quello dei miliardi di polli sommersi, invisibili, massacrati ogni anno dopo una breve vita di sofferenze e privazioni. I polli, i galli, le galline, ci dice Silvia, sono gli animali più diffusi, ma pochissimi umani al giorno d'oggi hanno la possibilità di interagire con loro. Eppure sono animali che fanno tanta tenerezza ed evocano sentimenti di simpatia. Basti pensare ai pulcini. Il compito di Nina è quindi quello di aprire gli occhi alle persone e insegnar loro ad apprezzare la ricchezza che abbiamo accanto. Ho finalmente incontrato Nina e Silvia in un caffè del centro ed è stata la cosa più straordinaria e anche più naturale di questo mondo. Ah, oddio, questo... Che impressione le fa? Tenerissima. Ma che cos'è? Una gallina? No, è una gallina. No. Ma è tua? Sì. No. Sì. E puoi accarezzarla. Complimenti. Beh, non ho fatto molto. Lo so, però ciao, patatine. Oh no, vi prego. No, non ci credo. Se io la prendo e la metto sulle ginocchia, lei ci sta. Ci sta, sì, sì. Sì, sì, la voglio, la voglio. Si sieda. Ciao, Nino. Ecco, lei basta che la carezzi così. No, vabbè. Ciao, Nino. Nina, È bellissimo. Sì, lei risponde. Ma risponde a cambiare. Sì, sì, assolutamente. Amore, ti piace? Che impressione le fa trovare al bar una gallina? Certo, vedere una gallina in giro come un animale domestico non si vede tutti i giorni. Io ho avuto la casa in campagna per tanti anni e le galline le avevo. Ora magari non andava nel bar forse, ma comunque stava nel pollaio, andava a giro. Ma questo è un po' speciale, mi sa. Gli è stata data l'occasione di esserlo. Ho visto le foto di lei in treno. Si è messa qua, avevo il libro di Martinelli. Cioè, se tu te la tieni lì, lei proprio vuole stare, cioè adesso io l'ho messa giù, ma se no, se lei potesse scegliere tra starmi in braccio e stare giù, lei sta in braccio. E le persone? Rimangono tutti strabiliati, cioè, ma neanche avessero visto un'aquila reale o un animale preistorico, è come se vedessero una gallina per la prima volta. È curioso. È, come dici tu, cioè, qualcosa di dissociato. È come se, cioè, non ti scattasse un interruttore. Sì, faccio fatica, cioè, fanno fatica, ma come l'animale che... Poi dopo tutti ti dicono, anch'io l'ho avuto in campagna. Cioè, io amo gli animali. Io amo gli animali, sì, sì. E allora, cioè, come fai a non mettere una cosa in seguito all'altra, no? Sai, sono animali che siamo abituati a vedere purtroppo sotto altre vesti, o meglio svestiti e in padella, per cui se gli si dà la possibilità di vivere altri tipi di relazione possono veramente stupire. Fuori dal supermercato diventa un'altra cosa, no? E allora mi chiedo che cosa scatta poi effettivamente nella testa delle persone, perché non c'è quel prima, no? Quel passaggio, quell'empatia, eppure lei scatena veramente sentimenti di grande tenerezza, simpatia, dolcezza, e mi chiedo che cosa impedisca alla maggior parte, stragrande, arrivederci, stragrande maggioranza delle persone, non vedere questa cosa anche nel nostro quotidiano, per cui non, cioè, se io vedessi pensare non fare la connessione, esatto, cioè se io penso alla Nina nuda dentro un supermercato mi sento morire, no? Ma è chiaro che per noi che abbiamo fatto questo percorso non c'è differenza. E poi vedi che studia tutto proprio, cioè sempre uno, del resto sono prede facili, per cui secondo me hanno una soglia di attenzione molto alta. Perché la vedi che studia quello che succede in giro, spero, sì, sono qua, tiene tutto sotto controllo anche se non sembra. A proposito del fatto che imparano, no? Ha assaggiato una formica, non le è piaciuta, l'ha lasciata giù, non ha mai più toccato una formica in vita sua. Secondo me hanno una memoria pazzesca loro, infatti anche le scale una volta che ha imparato le fa con disinvoltura e proprio si vede che fa esperienza, che fa tesoro delle esperienze che ha fatto. Io sono completamente rimbecillita, parlo solo della mia gallina. E quindi appunto ti raccontavo di questo papà che ha portato bambini in campagna, poi gli ha detto: ma che cosa rappresenta la campagna per te? Un posto dove le galline camminano crude. Nina, e lei risponde sempre: bravissima. And I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Psycho chicken. Nera è un'ambientalista ed educatrice cinofila, una donna che dedica la sua vita alle battaglie nella natura per la tutela e a favore di tutti gli animali. Cristina Nera è adesso anche un'autrice, in quanto è appena uscito il suo libro dal titolo Salvami, storie di animali feriti dagli umani, Kay Editore. Poteva forse un soggetto con queste credenziali sfuggire alla super antenna della nostra corrispondente da Milano, rabdomante dello scoop, Roberta Marino? La domanda è retorica. E la risposta è implicita. Sentiamo il servizio. Mamma, che salita! Non finisce più. Le foglie secche scricchiolano un po' sotto gli anfibi. Fa un freddo becco su questo altipiano battuto dal vento. Sei stanca? Vuoi che ci fermiamo un attimo? No, voglio arrivare e sequestrare il più possibile. Inizia così Richiami, uno dei capitoli forse più esemplificativi di Salvami, storie di animali ferite dagli umani, scritto da Cristina, in arte Chicca Nera. In questo capitolo era chiusa infatti l'essenza della vita dell'autrice. Per anni guardia venatoria, volontaria per l'IPO, WWF e accanto alla polizia provinciale ha combattuto i crimini venatori e in particolar modo il bracconaggio. Ma Chicca si è occupata anche di educazione ambientale cinofila, collaborando prima in centri di fauna selvatica e poi in canili e rifugi. Ed ecco che nel suo libro si ritrovano proprio queste due passioni che hanno costellato la sua vita. Storie di animali selvatici e domestici si alternano, scandendo il ritmo del libro con un leitmotiv comune e sullo sfondo quella mano umana che può ferire nel corpo e nell'anima, ma che può anche salvare. Abbiamo raggiunto l'autrice in occasione di una presentazione del suo libro all'Osi Smeraldino di Rozzano, alle porte di Milano. Sentiamola. Sono 13 storie che ho scelto faticando un po' ad escluderne altre, ma proprio come esperienze di vita e come animali che io ricordo tutti come individui che hanno contato tanto sicuramente per me. E delle storie che finiscono male, purtroppo, perché ovviamente trattandosi di storie vere non c'è lieto fine dappertutto. Ce ne sono diverse però con il lieto fine, ce ne sono alcune che invece sono secondo me buffe, perché proprio buffa è stata la situazione in cui ci siamo trovati io e altri volontari che si sono trovati davanti a cose oggettivamente ridicole, insomma. Ho alternato appunto animali selvatici e animali domestici, allora, chiaramente sono affezionata a tutte, però sono molto legata per quanto riguarda i domestici, in particolare i cani, a Ivan il Terribile, che è un Rottweiler molto sfortunato fino a un certo punto della sua esistenza. E per quanto riguarda i selvatici, sono legatissima a Sissi della Collina. Sissi era una piccola daina che ho avuto l'onore e il privilegio di allevare io con il biberone, di diventare parte del suo branco finché è vissuta. Il libro fa parte di una collana di tipo giuridico che si dedica proprio ai diritti degli animali. Il libro Salvami però non è tecnico, è un libro che vuole in qualche modo trasmettere l'empatia e la compassione, intesa proprio come condivisione delle sofferenze, nei confronti di qualunque specie animale. Quindi secondo me forse non è adatto a bambini molto piccoli, ma dai ragazzini in su io credo che possa piacere a chiunque sia un po' sensibile nei confronti della vita animale. Salvami, storie di animali feriti dagli umani, di Cristina Nera, KI editore, 13 euro. Se potessi parlarti di me, in questi giorni che il sole non c'è senza confondermi, perché sei mio padre. Se potessi cantare per me, l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Io non so mai chi sono è il titolo di un originale spettacolo ideato da Grazia Di Michele insieme a Platinette, che è in questi giorni in tournée nei palcoscenici dello Stivale Italiano e che ha come filo conduttore quello delle diversità e delle identità. Sapendo che Grazia Di Michele è un animalista convinta, avendo anche già all'attivo una sua intervista telefonica che Giuseppe era riuscito a rubarle alcuni anni fa, abbiamo deciso di approfondire la conoscenza con questa artista speciale e ci siamo presentati in gruppo nel suo camerino poco prima della esibizione fiorentina. Ne è uscita una particolarissima intervista, parzialmente cantata. Confondermi perché. Ma oggi ho liberato mamma e 6 cuccioli dopo 3 mesi, dove non ti dico che cosa non è potuto succedere per riuscire a capire come portarle via, perché scendevano da un pendio e io mi sono arrampicata per vedere che cosa c'era oltre il pendio e sono finita in una discarica. Guarda, è una storia lunghissima, però insomma è finita. Che oggi con un veterinario accalappiatore ha addormentato la mamma, l'ha messa dentro una gabbia, abbiamo preso tutti e 6 piccoli, in questo momento sono nel rifugio dell'EMPA vicino Riano Fiano Romano e tra una settimana vanno in Germania da questa signora tedesca Helga, che ha una struttura meravigliosa, e quindi abbiamo sistemato. Un giorno che sono andata a Villa Panfili, che è un parco che si trovava di fronte casa mia dove abitavo, dove ho trovato in una busta della spazzatura 7 cuccioli di boxer. E erano molto piccoli e non sapevo come portarli a casa perché ero da sola, non passava nessuno, era inverno. E allora a un certo punto avevo un Montgomery, quelli con i tasconi e con il cappuccio, ho filato uno nel cappuccio, uno nel tascone, uno in un altro tascone, uno e due, e sono entrata così dentro casa. Mia madre ha detto: entro 5-10 minuti o te ne vai o esci da questa casa. E invece poi lei si è abituata, perché sia io che mia sorella non abbiamo fatto altro da quando eravamo piccole che prendere animali in difficoltà, e quindi mia madre a un certo punto. Ma questa sensibilità, questa attenzione, questa cura noi ce l'abbiamo avuta da sempre. Io mi ricordo che da piccola mia mi portavano al circo come si portano i bambini per farli divertire. Io volevo andare via perché mi metteva una grande tristezza al circo, mi mettevano tristezza gli animali, tant'è che ultimamente ho adottato questa tigre Antares, che adesso in questo momento si trova a Lucca, tolta ad un circo. Ci dovrebbe essere tra poco la sentenza definitiva per l'affido definitivo di Antares, però io seguo costantemente i progressi di questa tigre. In questo momento ha la sua piscina, le cascatine, interagisce con altre tigri, ha preso il suo peso forma, ruggisce. Per me è una gioia, insomma. Io ho fatto testamento e ho lasciato gran parte dei miei averi alle associazioni che si occupano di bambini, associazioni serie, di animali, quindi poi non è che non ci siano altre priorità, per carità di Dio, ma tutto su sta terra non si riesce a fare. Vabbè, che non ci sono altre priorità si sa, e te attraverso le tue canzoni lo dimostri, perché ora riascoltando sia l'ultimo album che le canzoni di un tempo, il tema sociale traspare. Facevo il paragone con Sergio Endrigo, è stato considerato sempre un cantante melodico, però c'ha questi testi e queste cose che in realtà nella gentilezza e nella dolcezza riescono a dire delle cose veramente profonde, e quindi forse ora ti mancherebbe qualcosa sugli animali, magari. No, ma ne ho scritte tante sugli animali, solo che io ho delle canzoni che scrivo e che poi pubblico, e poi ho le mie canzoni che invece scrivo per altre cose o in altri momenti. Quelle ho paura che non sia così semplice da far capire, da far ascoltare, perché sembrano dei giochi, ma non è detto che non lo faccia prima o poi. I miei cani mi hanno ispirato, i miei animali, i miei gatti in continuazione, e poi io gliele canto proprio. Io adesso ho una micina sorda, completamente sorda, non sente niente, neanche botti di Capodanno, però io mi metto qua, non è perché sono musicoterapeuta, sì, ma io gli mando proprio le mie vibrazioni con la voce, canto, e lei si tranquillizza moltissimo, è un gatto tranquillo, ma a quei momenti lì va in catalessi, proprio si mette con la testina indietro, gli occhi, sente delle cose che non ha mai sentito. Non ha mai sentito. E io canto, sì, sì. Una piccola canzone che ho scritto per il mio cane André Breton, era un breton ovviamente, e siccome amava molto il portoghese, allora gli ho scritto Mininho André. Mininho André, un bretoncin saolindo, è stato sempre il grande amore, il vero amore, il mio bretoncin saolindo. Poi invece sul, diciamo che sul folk c'è Tu m'hai permise 4 polpettine, che però è molto più passionale, questa canzone un po' spagnoleggiante, anche se è della tradizione proprio partenopea, te ne accorgerai perché senti anche la vocalità. Tu m'hai promesso quattro poppettine, le poppettine, le poppettine, i sovvenute se, i sovvenute se me le vuoi dare, ste poppettine. Beh, questa era molto bella. A un certo punto il mio cane si è accoppiato e quindi è come bello fa l'amore quando è sera, cora cora con sta cucciola sincera, perché c'è no, tante canzoni, proprio tante tante. Guardami, guardami, sono uno scandalo, un biondo di platino, un disco che sfuma e rimane la cenere in cespico un poco, ma non riesco a cadere, e se vengo ad aprirti e do in mano un bicchiere, tu guardami ora, mi riconosci. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cosa c'è di meglio di un bel brunch domenicale, specialmente se accompagnato da un goloso piatto di pancakes con uno sciroppo denso che addolcisce il tutto? Ecco svelata la ricetta dei pancakes con sciroppo di zucchero di canna allo zenzero. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di acqua, 125 g di zucchero di canna, 100 g di farina 00, 25 g di olio di semi di girasole, un pizzico di cannella in polvere, della noce moscata, un pizzico di sale, mezza bustina di lievito per i dolci e un pezzetto di radice di zenzero fresco. In una ciotola unite l'acqua, l'olio, 25 g di zucchero di canna, la farina, la cannella, una grattugiata di noce moscata, un pizzico di sale e il lievito. Mescolate tutto con una frusta. Amalgamate bene fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso che lascerete riposare per 15 minuti. Nel frattempo preparate lo sciroppo mettendo il rimanente zucchero di canna in un pentolino assieme alla radice di zenzero alla quale avrete tolto la buccia e fatto a pezzetti piuttosto grandi. Aggiungete poca acqua fino a coprire lo zucchero e mettete a fuoco lento. Lasciate sul fuoco mescolando di tanto in tanto fino a quando lo zucchero di canna si sarà ben sciolto e avrà raggiunto la consistenza di uno sciroppo non troppo denso, poiché si addenserà maggiormente raffreddandosi. Con un pennellino in silicone passate un filo di olio in una padella antiaderente. Fate scaldare bene e versate un cucchiaio di impasto. Fate cuocere da entrambi i lati fino a quando i pancakes avranno preso un bel colore nocciola. Servite caldi con lo sciroppo di zucchero di canna dal quale avrete tolto i pezzetti di zenzero. A piacere si possono accompagnare i pancakes con della frutta fresca. Pontedera, in provincia di Pisa, il 3 giugno, un gatto che aveva trovato rifugio all'interno del Duomo si è fieramente opposto al parroco che lo voleva scacciare. E così Don Pierodini, parroco del Duomo di Pontedera, in provincia di Pisa, ha dovuto ricorrere a una medicazione in ospedale per le escoriazioni riportate. Per cercare di fare uscire il gatto dal Duomo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale. Ma senza nessun risultato. Alla fine, per catturare il felino, è stata chiamata un'associazione animalista che è riuscita a renderlo innocuo e lo ha preso in consegna. Su Cronaca Vera è uscito un trafiletto titolato Il gatto indemoniato. Nel marzo scorso, il sindaco di Valencia, Joan Ribó, aveva proposto corride senza tori, una possibilità interessante che potrebbe mettere d'accordo i toreri con il rispetto degli animali. Ribo era intervenuto per mediare tra il crescente movimento di opinione contro le corride in Spagna e i difensori della tradizione che definiscono la corrida un bene culturale. Ricordiamo che in Catalogna la corrida è vietata dal 2012. Il 3 giugno scorso, in Portogallo, a Lisbona, l'attivista Peter Jansen del Vegan Strike Group si è lanciato nell'arena di Campo Pequeño durante l'intervallo di una corrida. L'attivista, nudo dalla cintura in su, con alcune scritte sul corpo come «basta tortura», «rispetto per gli animali», «abolizione delle tauromachie», è stato aggredito e picchiato e infine anche arrestato. Sulla pagina Facebook Vegan Strike Group si legge che Peter è stato preso a calci, a pugni, a morsi e non c'è una zona del suo corpo che è rimasta priva di lividi e ferite. Anche quando era a terra hanno continuato a colpirlo fino quasi a perdere coscienza. Nessun arresto tra gli aggressori. La polizia non ha identificato nessuno dei violenti, mentre in compenso Peter è stato arrestato e subito rilasciato. Ancora una volta, continua il commento, i pro corrida mostrano chi sono: sadici, violenti, aggressivi e sanguinari, verso gli animali come verso gli umani. Anche in Italia cresce un movimento che si oppone alle corride iberiche. Sabato 11 giugno a Roma si terrà il primo No Corrida Day in Piazza del Popolo dalle ore 10.30 alle ore 13, dove verranno messi a disposizione volantini e informazioni. A organizzare è l'associazione Animalisti Italiani ONLUS. A Treviso la provincia dichiara guerra alle volpi. Viene rilanciato il piano che prevedeva l'uccisione di 1050 esemplari in 3 anni, sia adulti che cuccioli nelle tane. La prima edizione di questo programma di contenimento mortale era stata bocciata dal Consiglio di Stato sulla base di un ricorso che era stato presentato dalle associazioni animaliste LAV, EMPA e OIPA. A questo però è seguito un nuovo censimento delle volpi, dal quale risulterebbero oltre 1000 esemplari. La situazione è simile a quella delle nutrie, dice la provincia. Dobbiamo correre ai ripari prima che ci sfugga definitivamente di mano. Un'ANSA del 7 giugno ci informa che Greenpeace è molto preoccupata del riscaldamento dell'Artico. La salute del globo dipende anche dalla salute dei suoi oceani, ma le minacce che gravano sui mari del pianeta sono tante. L'inquinamento è il nemico numero uno da combattere, visto che ogni anno finiscono in mare almeno 8 milioni di tonnellate di plastica. Lo ricorda l'ONU in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che si celebra l'8 giugno. E alla vigilia della ricorrenza Greenpeace lancia il suo SOS per l'Artico, che si sta riscaldando 2 volte più in fretta di qualsiasi altra regione del mondo, con ripercussioni sull'intero clima terrestre. Un rapporto di Greenpeace evidenzia che per effetto del riscaldamento della regione artica, più veloce rispetto al resto del globo, nell'emisfero nord del pianeta potranno aumentare i fenomeni meteorologici estremi. Estati con scarsa copertura di ghiacci artici sono infatti spesso associate a un aumento della temperatura superficiale del Mediterraneo. Inoltre, sottolinea Greenpeace, il ritiro dei ghiacci rende più facile lo sfruttamento delle risorse naturali nel mar glaciale artico. Pesca, trasporto marittimo e trivellazioni fanno gola a molti e minacciano la sopravvivenza di questo fragile ecosistema. Ma non vi lasceremo senza prima citare tutte le voci che si sono susseguite durante questa puntata e che sono state quelle di Silvia Modeo, Nina La Gallina, Cristina Nera, Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci. Grazie di Michele, Peter Jansen, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la mitica Camilla Lattanzi. L'appuntamento è per domenica prossima, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.